Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con Marta degli auto-organizzati dello spettacolo per presentare la manifestazione dei lavoratori e lavoratrici di spettacolo e cultura. Martedì 23 febbraio 2021. Marta, ben trovata. Buonasera a tutte e tutti. Come si arriva a questo appuntamento? È un appuntamento nazionale. Sono 21 ormai le città che hanno aderito, o i coordinamenti regionali che hanno aderito. È un appuntamento che nasce appunto dal coordinamento di cui noi facciamo parte, che è Professionisti dello Spettacolo Emergenza Continua, e che appunto avrà una dislocazione su 21 piazze in Italia il 23 pomeriggio. Chiaramente la data è quella simbolica della chiusura dello spettacolo dal vivo in Italia. Il 23 febbraio del 2019 in Nord Italia, precisamente a Milano, con il piccolo cominciano a chiudere i teatri d'Italia, poi mano a mano a scendere verso il meridione. Quindi abbiamo deciso di tornare in piazza appunto a significare questo anno, che per noi chiaramente è stato un anno duro, un anno difficile, di stenti realmente, ma è stato anche un anno di lotte, di rivendicazioni, di riconoscersi, quindi anche un anno bello da alcuni punti di vista. Ecco, un anno di lotte, come dicevi, sono state tante le realtà che si sono mosse a livello nazionale con molte iniziative. Beh, sì, diciamo che quello che è accaduto in quest'anno è stato molto molto molto significativo, perché per la prima volta i lavoratori e le lavoratrici dello spettacolo si sono mossi in maniera coordinata, facendo un discorso ampio che parte fondamentalmente da una rivendicazione di diritti, da una rivendicazione sul reddito e da richieste che vogliono andare a riformare completamente il comparto dello spettacolo. Chiaramente è stato un anno complesso, lo sappiamo tutti, anche rispetto alle limitazioni che ci sono state imposte, quindi diciamo che le varie mobilitazioni sono state diverse e variegate nei diversi periodi dell'anno e nelle diverse zone d'Italia, perché non sempre è stato possibile scendere fisicamente in piazza, non sempre è stato possibile scendere insieme. Abbiamo fatto tante manifestazioni, alcune manifestazioni diciamo nazionali dislocate sui territori, una grande e bellissima manifestazione il 27 giugno a Roma, in cui sono scesi insomma i compagni e le compagne, i colleghi da tutta Italia, e adesso ci ritroviamo di nuovo a dover fare manifestazioni dislocate. Chiaramente lo prendiamo non come uno svantaggio questo, ma cerchiamo di mettere a valore la situazione in cui ci troviamo. Pensiamo che sia importante appunto stare sui territori in cui tutte e tutti lavoriamo tutti i giorni, in cui facciamo cultura, in cui facciamo spettacolo, in cui facciamo socialità, perché dobbiamo appunto accendere i riflettori sul fatto che la cultura si fa su tutto il territorio nazionale, non si fa solo a Roma, Milano e Napoli, si fa nei piccoli centri, si fa nei quartieri periferici, si fa nelle piccole associazioni, nei piccoli teatri, come nei grandi teatri. Quindi questa data del 23 anche questo vuole andare a dire, perché lo spettacolo e la cultura devono ripartire, ripartendo appunto dalla tutela dei lavoratori e delle lavoratrici, un discorso sulla sicurezza della salute, un discorso sul reddito, e deve ripartire nel momento in cui ci metteranno le condizioni di ripartire tutti, non di far ripartire solo i grandi baracconi degli stabili e delle fondazioni. Poi in parte già lo hai anticipato, però sono vari le parole d'ordine di indizione di questa manifestazione, dall'erogazione dei ristori alla convocazione di un tavolo interministeriale, ai protocolli di sicurezza, alla riforma strutturale. Ci articoli un po' questa parte? Chiaramente quello che noi andremo a chiedere, e noi a Roma saremo ovviamente i protagonisti di questa richiesta, sarà l'indizione anzi la riconvocazione di un tavolo interministeriale. Noi sono mesi che chiediamo che il tavolo sia interministeriale, che non ci basta parlare con il MIBACT, noi vogliamo parlare anche con il Ministero del Lavoro e vogliamo parlare anche con il Ministero dell'Economia. Questo tavolo in forma così larga non si è mai dato, c'è stato un tavolo di convocazione quest'estate tra il MIBACT e con il Ministero del Lavoro, che ci ha visto appunto seduti tra gli interlocutori, ma questo tavolo non si è mai riconvocato e crediamo che sia urgente farlo. perché sentiamo che siamo noi, lavoratori e lavoratrici, in quelli che hanno delle cose da dire su come ripartire, quando ripartire e soprattutto, qui arrivo al secondo punto, sulla necessità che si vada a riformare il comparto spettacolo e cultura dal punto di vista contrattuale e dal punto di vista previdenziale. Il nostro percorso non è un percorso che, anche se nasce durante l'emergenza, vuole parlare solo di emergenza, è un percorso che vuole parlare anche di quello che era il mondo del lavoro prima dell'emergenza Covid, è un mondo del lavoro, quello dello spettacolo, fortemente precarizzato, in cui non esistono tutele che vadano a salvaguardare l'intermittenza che è connaturata all'interno dei tipi di lavoro che facciamo. Quindi, per quello che noi facciamo anche una forte indicazione su un reddito di continuità che appunto possa supportare le lavoratrici e i lavoratori nei momenti di non lavoro, chiediamo che vengano riformate anche le riforme previdenziali, perché crediamo che una giornata di lavoro di un lavoratore dello spettacolo non possa contare quanto la giornata di lavoro di un impiegato del terzo settore, ma semplicemente perché il nostro lavoro è diverso, noi non lavoriamo tutto l'anno, non lavoriamo sempre, abbiamo dei lunghi periodi di non lavoro e questa cosa in qualche modo deve essere tutelata. Chiaramente, tra le altre cose, è importante chiedere l'immediato sblocco del Ristori 5, perché comunque questo bonus, benché insomma la logica dei bonus non sia chiaramente risolutiva, perché appunto non è un discorso sul lungo periodo e soprattutto lascia fuori tanti colleghi e colleghe, però comunque questo Ristori 5, che poteva essere un'ulteriore boccata d'ossigeno per i lavoratori, è rimasto bloccato durante insomma la crisi di governo. Quindi chiediamo anche che il governo Draghi si dia una mossa a sbloccare questo Ristori 5 in modo da far arrivare qualche soldo in tasca ai lavoratori. In chiusura ci lasci i riferimenti internet per saperne di più? Su Roma, Facebook e Instagram, Autoorganizzati Spettacolo Roma. Sul piano nazionale, per farsi un'idea di tutte le piazze che ci saranno in Italia, Facebook, Professionisti e Professioniste Spettacolo, Emergenza Continua. Manifestazione dei lavoratori e lavoratrici di spettacolo e cultura, martedì 23 febbraio 2021. Un saluto e un ringraziamento a Marta degli Autoorganizzati dello Spettacolo. Un abbraccio in bocca al lupo e alla prossima. Previ, grazie. Ciao. Con Carlo Dalla Costa per presentare il progetto Barbonaggio Teatrale Delivery. Carlo, ben trovato. Ben trovato, buongiorno. Ci racconti di questo progetto? Il progetto nasce ormai quasi 11 anni fa con Ippolito Chiarello, un artista di origini leccesi, che sviluppa questo nuovo modo di concepire il teatro. Quindi non farlo solo negli spazi convenzionali, ma cercando anche di portare il teatro sotto le case delle persone. Ovviamente in questa situazione poi particolare portarlo sotto le finestre, con le dovute distanze, però proprio andare a creare una sorta di menu dove le persone possono scegliere determinati pezzi, far venire l'attore e avere uno spettacolo ad hoc proprio per la loro situazione specifica. A livello nazionale si è ramificato in tante unità speciali di continuità artistica, giusto? Sì, esatto. Queste unità appunto prendono proprio spunto dalla volontà di poter portare questa iniziativa su un territorio esteso e sicuramente differente da realtà a realtà. Per esempio qui in Umbria, attraverso il Teatro a Domicilio Umbro, so che ci sono degli esempi a Milano, altri sono verso le zone del Lazio, verso la Toscana, Pisa, c'è il Teatro Delivery di Pisa. Quindi ognuno cerca un po' di portare una ventata di teatro in questo momento in cui ce n'è davvero davvero bisogno. Come funziona a livello di rete? Come vi coordinate? Siamo tutti coordinati attraverso Ippolito Chiarello. Lui ci segue costantemente, ci aggiorna sulle iniziative, ci aggiorna su quello che sta facendo. Al tempo stesso ci chiede una condivisione continua e questa è una cosa molto molto bella, proprio perché alla base c'è la condivisione di quello che si sta facendo. Bisognerebbe un po' ritornare a questa idea che il teatro è sempre di più è un atto collettivo e mai un atto individuale. Quindi ci riusciamo a contattare, riusciamo a scriverci anche attraverso WhatsApp, ci scriviamo mail, dove ci passiamo le informazioni che di volta in volta ci vengono date o le offerte che ci vengono richieste. Quante realtà si muovono a livello nazionale più o meno? Adesso saremo sull'ordine, penso, della ventina. Ed è poi una realtà in costante aggiornamento. Anche da poco ci sono miei colleghi verso il nord Italia che hanno curiosato su questa iniziativa, mi hanno chiesto informazioni, ho poi rigirato appunto i contatti di Ippolito. E anzi, è un'iniziativa che io spero non finisca con una ripresa di una normalità, che è anche quello il desiderio di Ippolito stesso. Non a caso è un progetto che nasce ormai da quasi appunto 11 anni, e in una situazione ben differente, quindi è proprio un modo diverso di fare teatro, ma non per questo è catalogabile come secondario di serie B. Le tue performance in regione come funzionano? Stanno funzionando molto molto bene. È partita dal mese di gennaio una collaborazione tra un comune, il comune di Marciano, e il Teatro Stabile dell'Umbria, di cui faccio anche parte, proprio perché si vuole cercare di portare la cultura anche in un momento difficile, e c'è stata un'attenzione da parte delle amministrazioni. Questo non toglie che ci sia stata sempre anche un grande interesse da parte dei privati, spesso mi chiamano e ho la possibilità di poter portare un attimo di felicità, e questo mi rende estremamente felice. Ecco, come si articola un tuo intervento singolo? Tutto parte da appunto la chiamata che mi viene fatta, e attraverso la chiamata io capisco quello che mi viene richiesto. Spesso io do una serie di pacchetti, ogni pacchetto ha al suo interno dalle 4 alle 5, 6 proposte differenti, e ogni pacchetto va a differenziarsi dagli altri per quello che viene proposto. Quindi c'è un pacchetto sulla letteratura, un pacchetto su dei monologhi, un pacchetto con delle cose della maschera e della commedia. Le persone si possono creare un pacchetto ad hoc o scegliere un singolo pacchetto. Decidono il giorno insieme a me, e poi quel giorno io vado sotto la finestra o mi metto in un giardino e faccio quello che mi è stato richiesto. Più o meno quanto dura la performance? Dipende anche lì dall'età degli spettatori. Siamo sempre comunque su una performance che varia dai 30, 35, anche fino quasi ad un'ora e un quarto. Mi è capitato di vedere delle persone che mi hanno richiesto due pacchetti interi, e lì sono stato non quasi due ore, ma molto vicino. Com'è il contatto con le persone? Il primo approccio è sempre molto, molto cauto, me ne rendo conto. Comunque si parla anche mantenendo le distanze, anche facendo queste cose sotto la finestra, quindi in totale sicurezza, e le persone poi mantengono la mascherina sempre. C'è una difficoltà, questa è la cosa che più mi ha colpito, una difficoltà nell'approcciarsi nuovamente a una persona. Questa cosa per fortuna poi va presto scemando, devo dire che dopo già i primi 10 minuti si crea subito un bellissimo rapporto, anzi. Spesso sono stato richiamato, spesso mi vengono scritte delle cose, mi mandano dei messaggi, proprio perché c'è questo bisogno di ritornare un po' a almeno una parvenza di normalità, almeno quella. In chiusura ci lasci tutti i riferimenti internet? Sulla pagina Barbonaggio Teatrale Delivery o cercando Ippolito Chiarello su Facebook trovate tutto quanto riferimento a livello nazionale. Se ci sono ascoltatori che sono in Umbria, altrimenti basta andare sul Teatro a Domicilio Umbro e lì si trova tutto. Comunque, ecco, su Barbonaggio Teatrale Delivery e Ippolito Chiarello su Facebook trovate tutto quanto, anche cercandolo su internet trovate tutti i riferimenti per tutte le parti d'Italia. Barbonaggio Teatrale Delivery delle Unità Speciali di Continuità Artistica, un saluto e un ringraziamento a Carlo Dalla Costa di Teatro a Domicilio Umbro. Un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Viva il lupo, a presto. Con Anna Dora Adorno e Nicola Pianzola della compagnia Instabili Vaganti per presentare la serie web Siete, 7 puntate quindicinali dal 25 febbraio al 20 maggio 2021. Ben trovati! Ciao, ciao a tutti! Ciao, ciao, grazie a tutti! Ci presentate questo lavoro? Siete, come suggerisce il titolo in spagnolo, è un progetto che indaga 7 arti, nel nostro caso, 7 arti diverse. Ed è un progetto che si inserisce in realtà in un nostro progetto più ampio intitolato Beyond Borders, che è un progetto che è nato proprio durante il primo lockdown per continuare a rimanere in contatto con tutti gli artisti internazionali con i quali abbiamo lavorato, abbiamo relazioni, dato che siamo una compagnia teatrale caratterizzata da una forte circuitazione mondiale, per cui attraverso questo progetto abbiamo stabilito connessioni a distanza e iniziato a lavorare attraverso il video, l'unico mezzo che avevamo a disposizione per scambiarci proposte, suggestioni e fisicamente scambiarci dei file. All'interno di questo progetto sono nati diversi progetti di web serie, tra cui Siete, che è promosso dall'Istituto Italiano di Cultura di Madrid, poiché collaboriamo con un collettivo artistico madrilegno che si chiama Cross Border Project, proprio adottando questa modalità. Ogni compagnia indaga una delle arti, scambiandoci suggestioni, indicazioni, creando materiale, e poi Anna Dora, la regista di Instabili Vaganti, cura la regia della video performance finale che riassume i linguaggi diversi delle due compagnie che hanno lavorato intorno a questi 7 contenitori di temi, suggestioni, indagando l'arte stessa. C'è un format per strutturare ogni puntata e che durata ha? Le web performance hanno una durata di circa 5 minuti, l'una proprio perché il format è stato pensato appunto per i fruitori del web e quindi di conseguenza per avere dei contenuti che sono immediati, che arrivano subito al pubblico. Quindi diciamo che rispetto all'ambito teatrale, in cui appunto siamo abituati a tempi più lunghi, a una percezione appunto diversa del tempo all'interno della sala teatrale, in questo caso il linguaggio viene adattato appunto al web e quindi diventa più immediato, più breve e molto ricco di immagini e di suggestioni. Ogni compagnia ne ha realizzato uno, come si compone? In realtà realizziamo insieme, diciamo, ogni episodio, e cioè scegliamo appunto la tematica di base, quindi in questo caso una delle 7 arti, per esempio cominceremo dalla danza e riflettiamo entrambi su questo tema, quindi con azioni fisiche, con pensieri, interviste, eccetera. Ognuno dei due crea appunto i contenuti in video e poi questi contenuti in video vengono combinati attraverso appunto il montaggio e la regia video. In che rapporto vedete tutte e 7 le discipline? È un qualcosa che caratterizza da sempre il nostro lavoro. Come compagnia abbiamo un approccio multidisciplinare, transdisciplinare, per cui il nostro è un teatro totale, un luogo dove si può generare l'incontro fra arti differenti. Da sempre utilizziamo molto il video, la musica, la parola, quindi la letteratura, la poesia, il movimento, la danza, e il teatro è un po' quello che unisce, il filo conduttore di tutte queste le arti. Per noi era interessante vedere come un'altra compagnia, anche con un linguaggio diverso, contemplava l'utilizzo di queste arti nel proprio lavoro e nella propria ricerca, per cui è molto interessante in questo continuo confronto scambiarci opinioni, idee, condividere il work in progress, perché è anche un modo per continuare a formarci e indagare nuovi linguaggi in questo tempo presente che ci sta mettendo in crisi, ci sta lanciando una sfida, cioè quella di contemplare questi nuovi linguaggi attraverso le piattaforme web a distanza e portarli nel nostro lavoro anche in futuro. Ci date tutti i riferimenti web per maggiori informazioni? Ogni episodio è pubblicato sui canali social dell'Istituto Italiano di Cultura di Madrid e all'interno del programma online Teatro Confinado del Teatro La Badia di Madrid, che è partner del progetto. Inoltre sono presenti anche sui canali social della nostra compagnia www.instabilivaganti.com, quindi sito web, la pagina Facebook, Instagram, YouTube e Vimeo. Dopo il 20 maggio mi dicevi fuori onda di un incontro online. Sì, per noi è interessante, soprattutto per il pubblico che non solo da Italia e Spagna ma anche da altre parti del mondo segue queste web video performance, è interessante condividere con loro il processo particolare di lavoro che abbiamo adottato, che è la cosa interessante che rende questo progetto particolare, proprio perché non possiamo stare in una stessa sala insieme a lavorare, ma tutto avviene a distanza, con tutte le difficoltà del caso, ma anche quella particolare caratteristica che rende un po' questo progetto unico. E quindi diciamo è importante far vedere anche cosa accade dietro la scena o il video in questo caso, e quindi attraverso un talk con tutti gli artisti che verranno coinvolti, quindi sia gli artisti appunto della nostra compagnia Instabili Vaganti, ma anche del progetto Beyond Borders, quindi altri artisti internazionali, sia gli artisti di Cross Borders, che sono guidati invece da Lucia Miranda, la regista spagnola. La serie web Siete, 7 puntate quindicinali dal 25 febbraio al 20 maggio 2021. Un saluto e un ringraziamento ad Anna Dora Adorno e Nicola Pianzola della compagnia Instabili Vaganti. Un abbraccio, in bocca al lupo e a risentirci presto. Un abbraccio a te, Crepillupo. Ciao. Grazie mille, ciao, ciao, ciao. Con Claudio Morici per presentare i suoi podcast 3 euro a pezzo, online fino a lunedì 1 marzo 2021. Claudio, ben trovato. Ciao, ciao, ciao a tutti. È un'iniziativa che si sta svolgendo da un po' di tempo, raccontacela sì. Un po'. Da gennaio io ho fatto questo evento su Facebook in cui offrivo i miei podcast, ovvero i pezzi che normalmente faccio dal vivo, e ora non posso fare più perché sono chiusi i teatri, e te li faccio nell'orecchio in qualche modo, quindi sono tipo 8 pezzi da 5-6 minuti, e in cambio di una donazione su PayPal praticamente ti puoi scegliere il pezzo oppure prenderli tutti, e se li prendi tutti io ho fatto un messaggio personalizzato alle persone che l'hanno preso tutti, cioè per gli auguri, se li vogliono regalare, ecco, molte persone da gennaio l'hanno regalati agli amici, ai compagni, agli amanti, e io ho fatto un breve video apposta per loro. Questa cosa dei video l'avevi già cominciata da tempo, diciamo, e l'hai un po' strutturata appunto da gennaio con questa iniziativa? È successo che a gennaio, mi sembra, a un certo punto Repubblica ha messo 2 miei video in home page, sulla pagina del sito repubblica.it, e quindi a un certo punto tantissime persone hanno scoperto i video e tutto quanto, perché era proprio quando facevo questi podcast a gennaio, che era anche un modo per sostenermi a teatri chiusi, e ovviamente noi che vivevamo di teatro, di eventi live o comunque di posti dove andare a raccontare le nostre storielle, ancora è tutto chiuso, quindi sarà anche un modo per sostenermi da parte di chi mi vede i video. Quindi poi un sacco di gente mi ha scoperto, diciamo a gennaio, ha scoperto i miei video, si è affezionata, quindi anche questa cosa dei podcast andava molto bene. La terrò fino al 1 marzo, poi dopo il 1 marzo la tolgo, perché adesso mi sono entrati nei lavori e non c'ho più tempo. Il pubblico mi ha sostenuto in un gennaio difficilissimo dal punto di vista economico, quindi veramente è stata un'esperienza per me nuova e bella, devo dire, una delle cose più belle che ho fatto riguardo questo lavoro. Cioè il sentire che la gente mi chiedeva delle cose, mi donava dei soldi in cambio di cose che io facevo per loro, cioè mi ha fatto sentire la prima volta che facevo un lavoro normale, per quanto poi la situazione in cui questa sensazione è avvenuta era una sensazione assolutamente bizzarra, paradossalmente mi sono sentito normale, come dice, ho un ruolo sociale, faccio un lavoro come gli altri, c'è una domanda e c'è un'offerta, ecco. Per chi non li conoscesse, quanti ne hai messi insieme finora e che durano? Durano dai 4 ai 7 minuti, uno è dal vivo al Cinema Palazzo e gli altri sono tutti registrati a casa, ma sono gli stessi pezzi che io facevo a teatro, tranne qualche eccezione, non sono i pezzi che poi sono diventati dei video, sono pezzi che non ho mai fatto in video perché non sono particolarmente adatti. Argomenti più e variegati? Parlano della coppia, dell'amore, del comune di Roma, forse un paio sul coronavirus come video, però non avevo fatto il video. Devo dire che molti se li sono presi tutti e li hanno regalati agli amici o alle mogli, e io ho fatto un messaggio personalizzato, eppure questo è stato molto figo perché poi li mandavo su WhatsApp, e quindi succedeva che la persona che diceva questo video prima dei podcast su WhatsApp diceva: chi sei? Non hai il coraggio di scrivere? Dimmi chi sei, per sapere solo un video. Pensavo che era un virus, oppure qualche spammer, capito, gli mandava questo messaggio video da numero sconosciuto. oppure a volte ce n'avevo dei giorni e me ne arrivavano tanti di richieste, perché magari facevo il post su Facebook. E allora mi sono sbagliato a volte. C'era per esempio un tipo che ha mandato un messaggio a un'amica vera, non c'era niente di strano, e poi anche alla compagna. E io ho sbagliato le email, i telefoni, per cui ho mandato alla sua compagna il messaggio di questo tipo dedicato all'amica. Capito? È successo un casino, mi sono arrabbiati, gli ho fatto una figura di merda incredibile, oppure a volte mi sono sbagliato il compleanno, insomma, ho fatto, cioè, era pure una cosa, però era tutto, faceva tutto parte della vita, diciamo. Di un'esperienza di comunicazione senza filtri, ovviamente così, senza, tra i filtri intendo anche, che ne so, il governo italiano, l'agibilità di un palco, la SIAE, roba del genere, un rapporto. Come fa l'artista di strada? Beh, l'espresso d'artista di strada, che dico, a me piace molto questa cosa. Ne hai realizzati una serie anche su Covid e vaccini, che però non rientrano in questo... No, questi sono i video, perché su Covid e vaccini sono stati i video che da mesi, insomma, metto su Facebook, diciamo, anche lì pure è stata una scoperta da lockdown, e quindi poi a un certo punto è stato l'unico mio palco possibile, e in realtà sono riuscito a fare cose su questo palco, nel senso a intuplicare il mio pubblico e a inventarmi un linguaggio mio anche per quel palco. Quindi alla fine è stato interessante artisticamente. Ho imparato delle cose nonostante non ci fossero più teatri aperti, nonostante non vedessi più il mio pubblico faccia a faccia, sono riuscito ad andare avanti con uno sforzo che non è stato automatico, ovviamente all'inizio, cioè, il teatro è il teatro, non è che lo puoi fare in altra forma se non il teatro si chiama teatro, che si chiamava video, infatti io ho fatto dei video, non ho fatto teatro. Però essendo un performer, volendo dire delle cose, avendo una mia poetica, diciamo così, non è impossibile trasformarla in altri media. Poi di quando ci sarà pure il virus informatico, probabilmente mi metto a fare i quadri, oppure faccio il driver. Scrivo i miei pezzi, li scrivo sui muri, lo farei per davvero, eh. È uno scherzo, però neanche tanto, cioè, se non potessi fare i video e non ci fossero i teatri, io faccio i graffiti. In chiusura ci lasci tutti i riferimenti per saperne di più? La mia pagina Facebook ormai è il riferimento più valido, e quindi Claudio Morici, la pagina, non il profilo, la pagina, che sto io, uno con la barba, sono io, Claudio Morici. I podcast 3 euro a pezzo online. Sì, non... è un evento, esatto. Per i podcast l'evento è 3 euro a pezzo. Entrare nell'evento, ci sono le istruzioni per ricevere i podcast. Un saluto e un ringraziamento al comico Claudio Morici. Un abbraccio in bocca al lupo e alla prossima. Ciao, grazie, alla prossima. Ciao, ciao. Con Francesco Pacifico, curatore dell'iniziativa TBQ Letteratura e Periferia, 6 incontri online dal 19 febbraio al 7 luglio 2021. Ben trovato. Ciao. Ci racconti? Questa idea nasce nelle nebbie del primo lockdown, con due incontri un po' improvvisati al volo, uno con Valerio Mattioli su Remori, ovviamente, un altro con Jonathan Bassi su Febbre, e hanno funzionato, insomma, abbiamo cercato di parlare di centro e periferia, mettendo molto l'enfasi su quanto sia vuoto il centro, su quanto sia poco da raccontare, magari tra 5 anni, quando si troveranno nuovi modi di riempire il centro delle città che si è svuotato con la pandemia, sarà di nuovo interessante da raccontare. Quindi insomma, quei due incontri sono stati un po' un laboratorio in mezzo a tutta l'incertezza dell'estate scorsa, e quindi poi col quarticciolo abbiamo deciso di rilanciare, fare molti più incontri, si sono inseriti anche di Roma, quindi insomma... siamo organizzati un po' meglio. E i 6 incontri sono incontri con libri che sono stati scelti perché sono bei libri. Libri di qualche anno fa, come può essere Il tempo materiale di Giorgio Vasta, oppure libri appena usciti come il primo, quello di Antonella Tanzi, oppure quello di Nicola La Gioia, che è uscito insomma poco tempo fa. Però devono essere libri che noi filtravamo con quest'occhio, andare a vedere la città. In realtà, insomma, io è una cosa che farei anche per parlare di qualunque quartiere, cioè prendere un libro e invece di leggerlo per le storie, per i personaggi, leggerlo per come riesce a raccontare la città. Ovviamente quando racconti la periferia c'è qualcosa di più interessante, perché le storie dei quartieri borghesi poi finiscono sempre tutte intorno a se ti piace come è arredato il salotto e se hai messo le coppe a tua moglie, quindi sono così più noiose, so che mi spiego. La scelta di queste 6 date? È complicato mettere insieme un bel libro e un argomento, perché di solito quei libri si scelgono semplicemente perché sono belli. Siamo andati un po' intuito a gusto, abbiamo preso libri che ci piacevano, che piacevano ai miei amici, non so, non ho capito. Quindi è un po' di rabbonanzia, perché non c'è un discorso preciso. Noi per parlare di periferia ci rifacciamo sempre, non so, a Pasolini, sto a 100 metri da Madrione in questo momento. E si riparte sempre da quello, invece il tentativo era un po' scombinare tutto e vedere se trovavamo, grazie agli autori, grazie agli ospiti, un altro modo di raccontare. Quindi siamo andati per esempio su un asse, se vuoi, molto alto, anche cerebrale, Giorgio Falco da una parte e Giorgio Vassa dall'altra, per fare una cosa nord-sud, appunto molto cerebrale. Poi abbiamo scelto qualcosa di più popolare come il romanzo di Nicola La Gioia, come quello di Antonella, quindi tentativi di fare un po' di ragionamenti che partono dal noir. Poi abbiamo preso una cosa invece più neorealista in senso antico, come il libro di Alessio Forzone. Poi c'è invece il ragionamento sull'Italia industriale di Francesco Targhetta. Stiamo cercando di capire cos'è, non abbiamo, diciamo, un piano troppo scientifico. Come si articoleranno gli incontri? Purtroppo pochi avvengono di persona. Quello con Antonella, di persona, perché Antonella vive a Roma, e con Michela Marzano in collegamento. Poi dipende chi c'è e chi non c'è. Per esempio, che so, quello con Falco, l'altro ospite sarà Niccolò Porcelluzzi, che è mio collega alla rivista Alta Scapide, e staranno tutte e due fuori. Io starò nell'atrio del Teatro Quarticciolo da solo, con i soliti Zoom. E così, insomma, la cosa un po' difficile da fare è riuscire a stabilire che non si parlerà di personaggi e di storie, che in qualche modo non si farà la solita pubblicità al libro, che è una cosa che lavorando nella macchina editoriale mi ha stufato da anni, ma io cerco di partire proprio dai passaggi del libro dove l'autore ha cercato di raccontare la città, e mi piace partire solo da quelli. In generale io vorrei che i libri si presentassero più spesso, così, a partire da dei filtri, no? Perché sennò diventa la solita predica della domenica sulla bontà, il bene, l'empatia, senza le qua, non so, qualcosa di più materiale, qualcosa di più tangibile. Che città sei andato a vedere, che città hai visto, che dati hai raccolto? Ci dai tutti i riferimenti online? Se cercate Teatro Biblioteca Quarticciolo trovate tutto su Facebook, poi dopo si fanno lì le dirette, poi rimane tutto sulla pagina, quindi insomma abbastanza facile da trovare. Un'altra curiosità, ci sarà la possibilità di interazione con chi è all'ascolto e sta guardando? Sì, penso di sì. Se vi mettete a commentare su Facebook, magari qualcuno della redazione può riportare domande. Effettivamente sì, non ci avevo pensato, perché ormai queste presentazioni sono dei tali casini organizzativi, proprio anche che non c'hai gli occhiali abbastanza forti per vedere le cose, però effettivamente, non so, pensi che sia una cosa da fare? Beh, sì. Io ormai ho perso qualunque capacità di stare in società. QBQ, letteratura e periferia, 6 incontri online dal 19 febbraio al 7 luglio 2021. Un saluto e un ringraziamento al curatore Francesco Pacifico. Un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie. Grazie. Con Lucio Fiorentino, regista del documentario Prenditi cura di me, in streaming sabato 20 febbraio 2021. Lucio, ben trovato. Buonasera, buongiorno Federico, a te e a tutti i nostri ascoltatori, grazie. Ci racconti? Prenditi cura di me è un documentario sullo spettacolo Spacciatore, un testo originale scritto da Andrei Longo con la collaborazione di Pierpaolo Sefe e messo in scena con la regia di Pierpaolo Sefe, che doveva debuttare a San Ferdinando di Napoli sotto Natale nel 2020 e per ovvi motivi, teatri chiusi causa Covid, non ha debuttato. Quindi diciamo che abbiamo documentato una parte delle prove e lasciamo per adesso questa traccia, in attesa poi che si possa incontrare il pubblico. Com'era nata l'idea di realizzarne un filmato di questo allestimento dello spettacolo? L'idea è nello stabile di Napoli, poiché i teatri sono chiusi per decreto, sono stati praticamente quasi sempre chiusi, no? Se non per una parentesi estiva nel corso del 2020, ma diciamo con l'ultimo decreto li ha chiusi a ottobre, durante la seconda ondata, per non riaprirli più. A tutt'oggi siamo praticamente a metà febbraio, non sappiamo quando apriranno i teatri. Bene, con questa premessa Lo Stabile di Napoli ha continuato comunque a porte chiuse senza pubblico a fare le prove degli spettacoli che avrebbero dovuto incontrare il pubblico, non l'hanno fatto. Questo sia per consentire a attori, registi, ma anche tecnici, le maestranze di lavorare, e sia per comunque prepararsi a quando un domani poi i teatri riapriranno e quindi avere gli spettacoli che erano in cartellone comunque pronti ad andare in scena. Poi con che programmazione, questo dipenderà ovviamente da quando i teatri riapriranno. Con quest'idea, diciamo, dei teatri chiusi, però con dentro tutto il personale artistico e tecnico che lavorava, si è pensato di raccontare in qualche maniera quello che accadeva a porte chiuse, cioè andare comunque a fare una testimonianza da portare al pubblico, purtroppo orfano di questo incontro, il pubblico di appassionati del teatro, degli abbonati e perché no anche di chi invece non lo era, cercando magari di incrociare l'attenzione anche di altro pubblico. Con un nuovo mezzo, c'è cioè il video, praticamente, ovviamente in forma diversa, perché non è lo streaming dello spettacolo, ma è un'altra cosa, è il racconto dall'interno con un altro tipo di grammatica, diciamo, di questo processo creativo. Che impressioni ne hai ricavato da questa esperienza? Diverse. Una prima impressione è che secondo me è molto interessante, diciamo, dall'interno raccontare quello che accade, come si costruisce uno spettacolo. C'è qualcosa che il pubblico, di cui faccio parte anch'io, diciamo, come appassionato di teatro, non conosce, perché il pubblico entra in sala, si spengono le luci e inizia il racconto. Ma quello che ha portato a quel racconto, secondo me, è a sua volta un racconto molto interessante. Cioè, fatto di una collaborazione di uomini, fatto da un incontro, fatto da scoperte inaspettate, fatto da conflitti, fatto da difficoltà dovute spesso anche al Covid, non ci dimentichiamo che ora c'è le prove, spesso mascherine, distanziamento, cioè non è facile, fatto anche però di ostinazione, e tutto questo secondo me può essere a sua volta un racconto che si affianca senza sostituirlo al teatro, la messa in scena che resta comunque la cosa principale, però è un'altra cosa, sai, ci pensavo prima, è un po' come il chef, no? Diciamo, ecco, uno degli chef in televisione ci ammordono anche, diciamo la verità, tutte le trasmissioni, quindi questo processo della cucina, eccetera, eccetera. Solo il teatro lo è altrettanto, lo è di più, permettimi questo paragone azzardato, diciamo, però se è interessante quello, pensa invece dietro le quinte di un teatro, no? Quando si crea uno spettacolo. In questo caso poi lo spettacolo era anche un testo nuovo, quindi non è che si provava un Chekhov o uno Shakespeare, ma era proprio un testo inedito che vedeva la luce in quel momento, incarnato in quegli attori, quindi non aveva avuto altri attori che avevano incarnato quelle parole, quei personaggi, grazie alla disponibilità del teatro, dello Stabile di Napoli, diciamo, che mi ha lasciato molto libero, devo dire, di Pierpaolo Sete, che è il regista, e della sua compagnia, io ho potuto muovermi come volevo sul palco. Questo ha consentito anche di avere uno sguardo inedito, perché io pubblico, mi siedo in platea, nei palchi, e vedo lo spettacolo da quella prospettiva. Invece adesso, attraverso questo racconto, ci sono i primi piani, ci sono le luci, ci sta la macchina scenica che comunque vive, si muove, si sposta, tutto ciò che è invisibile al pubblico. Ripeto, non sostituisce lo spettacolo, però si aggiunge in maniera diversa a quel tipo di racconto. Ci dai tutte le indicazioni per sabato? Il documentario Prenditi cura di me, che tra l'altro è un verso di una canzone, le musiche sono di Francesco Forni, sono bellissime, però è in napoletano, Prenditi cura di me, dice la canzone, io ho tradotto in italiano, e che mi rappresenta anche un prendersi cura di una comunità rispetto al suo teatro e degli attori rispetto ai personaggi che impersonano, sarà sul sito e sui social dello Stabile di Napoli sabato 20 febbraio alle 20:30 e poi resterà sul sito e sui social, diciamo, per chi vorrebbe vederlo in differita, diciamo così. Dura mezz'ora e spero vi piaccia. Prenditi cura di me, in streaming sabato 20 febbraio 2021, un saluto e un ringraziamento al regista Lucio Fiorentino. Un abbraccio, in bocca grazie al lupo e a presto! Viva il lupo, grazie, grazie di averci ascoltato, vedi stato, grazie. Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.